proprio un secolo fa sembrava una pazzia. L'aviazione era agli inizi una grande fantasia. Aquila solitaria volava nel cielo da New York a Parigi. Non rese mai donna felice, né trovò mai le sue radici. Entrato con prepotenza nelle ali della storia, tutta la sua vita una sola idea volare nella memoria. Charles Lindbergh, pilota dell'impossibile, fu il primo a percepire che il successo è di per sé una fine. Volare sopra i cieli sembrava irraggiungibile, ma a volte il sogno spacca le frontiere dell'invisibile e lascia a bocca aperta gli increduli e i curiosi. Il sogno di un'aquila basta a mantenerci vivi. Acclamato dai popoli di ogni continente per le sue gesta piccolo, principe splendente. Negli anni 30 l'America, in crisi di penuria, cercava sogni per superare illesa la sua grande paura. Le traversate furono propaganda di un'illusione. Attraversò anche il deserto a mani nude, con passione. Lui che con gli aeroplani ci andava a letto come una moglie. Lui considerava gli americani un popolo stupido e senza voglie. Volare sopra i cieli sembrava irraggiungibile, a volte il sogno spacca le frontiere dell'invisibile e lascia a bocca aperta gli increduli e i curiosi. Il sogno di un'aquila basta a mantenerci vivi. Morto, rapito dal successo, in pasto alla furia di un popolo pazzo, Anna, compagna di viaggio, le diede figli ma non capì il messaggio. Con altre donne alla ricerca di un nesso, ebbe dei figli ma restò con se stesso. Stanco di vivere vita, andò nel mondo come un eremita. Non trovò mai pace, sempre in cerca di gloria. Aquila in cielo senza memoria, nella sua strada non ha trovato rotta e la sua vita è stata una disfatta. Chi scrive storia è spesso un uomo solo, chi porta sogno non chiede mai a nessuno. Il mondo brucia chi forza il destino, le arie pure il seme diventa grano. Volare sopra i cieli sembrava irraggiungibile, ma a volte il sogno spacca le frontiere dell'invisibile e lascia a bocca aperta gli increduli e i curiosi. Il sogno di un'aquila basta a mantenerci vivi. Volare sopra i cieli